Come detto prima, quando abbiamo anticipato la scaletta della puntata, andiamo a sentire una compagna che ci racconterà un po' cos'è successo a Milano il 16 ottobre. Allora, ciao, ci senti? Pronto? Pronto? Pronto, ciao, ci senti? Sì, buongiorno, sono la ragazza. Ok, ciao, ciao. Allora, senti, niente, come detto, siamo in diretta, eh. Volevo dirti. Un attimo, ti devo andare in un posto tranquillo perché qua Ok, stanno dicendo lo slogan. Chiedo la perché scusa. ricordiamo che la compagna è tra l'altro in diretta da Milano, da una piazza dove si sta svolgendo una manifestazione e poi ci spiegherà bene anche insomma che manifestazione è. Comunque, come detto, volevamo parlare un po' con te sulla situazione generale in Iran in seguito all'uccisione di Mahsa Amini da parte delle forze governative e di tutto quello che è accaduto fino ad oggi. Se vuoi raccontarci un po' la situazione attuale. Sì. Allora, tutti sanno già che i minorenni vengono fucilati in piazza durante la manifestazione in Iran. E questi ragazzi vengono torturati nella prigione alla maniera medievale e i loro genitori sono costretti a dichiarare ai media che i loro figli, si sono suicidati. Purtroppo le ragazze catturate quasi sicuramente vengono violentate nella prigione. Della prigione di Evin posso dire che è ancora peggio del campo di sterminio di Hitler. Per noi loro sono peggio di fascisti e nazisti. Almeno loro erano nazionalisti e patriottici, invece il regime islamico sta distruggendo il nostro paese, rubano i nostri soldi che poi portano in Canada e Svizzera, dove vengono accolti. Loro vogliono che dall'Iran non rimanga nulla. Questo fa parte di un gioco sporco che hanno condotto gli americani per 40 anni. Hanno spedito Khomeini in aereo riportandolo in Iran. Erano loro che hanno podestato lo Shah di Persia. Se no, come un ISIS che non conosceva la doccia, è arrivato al potere. Questo scherzo l'hanno fatto anche con gli afghani. Hanno messo i talebani lì al potere. Mi sa che negli Stati Uniti c'è una fabbrica che produce gli uomini islamisti allo scopo di distruggere e sfruttare il Medio Oriente. Però questa volta non funzionerà più perché noi siamo consapevoli dei nostri diritti e questa volta siamo noi che scegliamo un governo giusto per noi, un governo democratico e non islamista. Ok, quindi volevo chiederti, comunque le rivolte stanno andando avanti in Iran perché le notizie che arrivano appunto sui mass media nazionali e sui social, se non si fa abbastanza ricerca, diciamo, vengono un po' occultate. Comunque la situazione di protesta sta andando avanti ancora in Iran, no? Sì, quasi in tutte le città dell'Iran stanno uscendo nella piazza e stanno facendo la manifestazione e stanno morendo per la strada o vengono portati in prigione e sicuramente vengono uccisi lì. Quindi c'è un grande livello repressivo in atto. Vabbè, per tutta questa insomma, situazione che ci hai descritto in maniera abbastanza diretta e genuina, di sicuro preferiamo una tipologia di racconto del genere. Volevamo chiederti appunto com'è andata l'iniziativa del 16 ottobre che c'è stata in piazza qui a Milano. Allora, il 16 ottobre, quando io ho partecipato alla manifestazione qua a Milano, ero davvero orgoglioso ai miei compaesani perché hanno partecipato tutto. Ho visto lacrime nei suoi occhi. tutti quando dicevano lo slogan. Poi una nostra cara amica italiana che ci ha aiutato tanto. E lei sa più informazione su questa materia, che può rispondere meglio lei. Va bene, ok. Ciao, ci siete? Siete ancora in linea? Sì. Ok, mi puoi passare la compagna? Certo, okay. Grazie, arrivederci. Grazie, ciao, grazie. Pronto? Pronto, ciao. Ciao, benvenuta a Radio Tagadà. Sì, allora abbiamo parlato un po' prima con la compagna che ci ha descritto, insomma, la situazione attuale in Iran, appunto. Gli chiedevamo, reso conto dell'iniziativa del 16 ottobre c'è stata a Milano in piazza, se poi ci sono altre iniziative, se si ha voglia di lanciare appunto altri momenti pubblici o dei contatti, Sì, appunto. certo, assolutamente. A partire da oggi abbiamo due manifestazioni molto importanti, una si terrà a Roma, che è una sorta di manifestazione nazionale però per gli iraniani in Italia. Si sta tenendo proprio in questo momento e in parallelo in diverse città del mondo, sempre questo pomeriggio, si è organizzata una catena umana, appunto è un'iniziativa mondiale e noi in questo momento siamo appunto qui in manifestazione, però abbiamo previsto diverse manifestazioni future, la prossima si terrà il 5 di novembre. Sarà un altro corteo sempre qui a Milano e molto importante è anche l'incontro e la possibilità che ci ha dato il CSA Barahonda, ci ha dato la possibilità di avere un incontro per uno scambio, proprio per eliminare queste barriere culturali e per aprirsi vicendevolmente, dato che l'Iran è un paese che non ha mai potuto aggregarsi, non hanno mai potuto avere delle associazioni, tantomeno delle associazioni autogestite, quindi è un modo per conoscere quello che è il mondo delle associazioni autogestite e dall'altra parte di controparte e capire per gli italiani, capire bene qual è la situazione che in questo momento stanno affrontando gli italiani, perché solitamente tutte le informazioni sono filtrate, invece riuscire a parlare direttamente con loro è molto più proficuo. Ok, allora noi vi ringraziamo, capiamo che è un po' complicato il collegamento al momento perché siete appunto anche in diretta dalla manifestazione che dicevi tu che sta avvenendo anche in altre città, diciamo, europee e non solo. Siete al momento a Milano, in che piazza? Scusami, giusto per Siamo in capire. Piazza Castello, il cordone inizia in Piazza Castello e terminerà in Arco della Pace. Ok, ricordiamo anche che ci saranno tutta una serie di iniziative, il 3 Sì, novembre esatto. ci sarà Il 5 l'incontro. novembre è il prossimo, sì, il 5 novembre e poi il 20 novembre l'incontro col CSA Baronda. Ok, perfetto. E poi il 26 ci sarà la manifestazione, quella, penso, un'altra manifestazione a Milano dove vi presenterete, confluirete probabilmente. Non ho capito, No, dico il scusami. 26 novembre ci sarà anche una manifestazione a Milano dove ci sarete presenti? Sì, assolutamente. Considera che noi comunque abbiamo come appuntamento fisso il fine settimana, se non è il sabato e la domenica, ma ogni fine settimana noi saremo in piazza a Milano. Questo te lo garantisco. Va bene, dai. Ok, allora ti ringraziamo, vi Grazie a voi. salutiamo. E ora ci sentiamo un altro pezzo. A presto. Ciao, grazie. Ciao, Ciao. grazie.